Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Chi già me lo chiede, prima ancora che iniziamo la puntata, no, non parleremo dei tassisti, non voglio ripetere ogni giorno quello che stiamo dicendo sulle modalità del, poi mi rispondono i tassisti, in realtà sono, non è uno sciopero ma sono assemblee spontanee. Ho capito, il dato di fatto è che l'Italia è bloccata, o meglio le grandi città in primo luogo. A Roma anche qui le manifestazioni si fanno, però nei limiti della, dell'atto civile, e ripeto, non ce la si può prendere, è giusto manifestare la propria contrarietà, ma non ce la si può prendere né con lanci di oggetti verso gli NCC, né con i colleghi tassisti che avessero voglia di lavorare. Questo funziona per qualunque categoria. Poi mi hanno scritto decine di esercenti di altri e titolari di licenze di altri esercizi commerciali, penso ai bar e non solo, che hanno detto a noi hanno liberalizzato il settore, nessuno si è mai preoccupato perché i tassisti devono avere un trattamento diverso. Devo dire che a mio avviso è stato un errore anche politico mettere l'emendamento in quel modo nottetempo nel milleproroghe, anche perché il milleproroghe poi è blindato, quindi da questo punto di vista si poteva anche avvisare, parlare meglio con le sigle sindacali. Devo dire che oggi anche il ministro Padoan sulla vicenda dice sì, giusto andare verso una maggiore liberalizzazione, però bene la concorrenza, scusatemi, ma la transazione deve essere morbida, aumenta la crescita, ma bisogna garantire i settori interessati. Questo poi alcune modalità di manifestazione sicuramente sono da condannare e ci mancherebbe. Penso, ma qui ci si somma oggi anche la protesta degli ambulanti per quello che riguarda Roma. Dopodiché sarebbe interessante capire che cosa c'è, perché se uno chiama un taxi in questi giorni si sente dire ci potrebbero essere dei disagi sul servizio per l'astensione spontanea, dopodiché i taxi non arrivano. Faccio notare banalmente che domani inizia la settimana della moda a Milano, che è già una settimana in cui i taxi difficilmente sono reperibili, visto l'afflusso di buyers e operatori a Milano. Mi chiedo cosa capiterà domani. Detto questo, non voglio tornare sul tema del modo in cui si sciopera, del fatto che è troppo facile dire bene, è una manifestazione spontanea, e no, è di fatto uno sciopero, e allora gli scioperi vanno condotti in un certo modo, con massimo rispetto per chi sciopera, per le ragioni di questo sciopero. Noi oggi ci occuperemo, però facciamo sentire questo Padoan sui taxi, così poi chiudiamo tra virgolette il tema e andiamo avanti con il resto della giornata economico-finanziaria. Questo è un problema italiano, è un problema di molti paesi. Il fatto di aumentare la concorrenza nei settori dei servizi, sappiamo bene che aumenta la capacità di crescita. Certo, bisogna farlo garantendo una transizione dolce e soffice ai settori che vengono diciamo interessati dalle privatizzazioni. Ed è iniziato comunque l'incontro tra il Ministero dei Trasporti, tra i tassisti e il governo. Presenti il ministro Delrio, il vice ministro Nencini, la sottosegretaria Simona Vicari. Tra le categorie presenti Unica Taxi, CGL, FIT, CIS, UIL Trasporti, UGL Taxi, Feder Taxi, CIS, Alfast Taxi Italia, USB Taxi, Un'impresa, Satam, Tamakai, Uri Taxi, Lega Coop, CLAI, Confartigianato Trasporti, Casa Artigiani, CNA Fita, Confcommercio, Confcooperative e MIT, il Movimento Italiano Tassisti. Poi la dichiarazione del sindaco di Roma è una dichiarazione, diciamo, che ha due aspetti. Alcuni hanno voluto vedere una contraddizione in questo, perché il sindaco Raggi prima scrive noi siamo con voi, no alle riforme calate dall'alto, poi però lancia un appello affinché il servizio torni alla normalità e l'invito a evitare episodi vergognosi come le minacce a chi vuole lavorare anche perché ricorda il sindaco di Roma che il servizio taxi è una carta, un biglietto da visita per la città, soprattutto per quello che riguarda i turisti. Molti di voi mi scrivono anche delle ricevute fiscali. Allora, il tema però non è in questo caso la ricevuta fiscale. Sappiamo che in media la dichiarazione fiscale di tassisti è 18.000 euro lordi l'anno, mi sembra un po' poco, ma non è l'unica delle categorie che dichiara poco, ne abbiamo raccontate per anni. Però il tema non è la ricevuta fiscale dei tassisti in questo caso, il tema vero è come tenere dentro, diciamo, la proroga, perché si è deciso di prorogare. Allora, si è deciso di prorogare la parte che riguarda gli NCC e quindi che coinvolge anche Uber, perché ha detto la proponente dell'emendamento Linda Lanzillotta: aspettiamo il disegno complessivo sulla riorganizzazione del trasporto pubblico. Ripeto, politicamente si poteva anche fare in un altro modo. Molti mi continuano a scrivere: ma il tema della licenza, però anche noi avevamo le licenze che sono state, diciamo, distrutte dalla liberalizzazione, eppure lo so, da sempre il mondo dei taxi è un mondo che è a cavallo tra il servizio anche di utilità pubblica e invece il classico servizio tramite licenza, e quindi con un valore della licenza. Io spero che poi ci sia una riflessione non solo su Uber e non solo sugli NCC, una riflessione anche di non solo di posizionamento, ma anche sul futuro. E ho fatto semplicemente notare che le modalità di questa estensione del lavoro sono il miglior canale per portare i clienti su Uber e su altri servizi, perché quando tu vieni colto alla sprovvista senza nessun preavviso, a quel punto cerchi forme alternative. Tutto qua. Di cosa ci occuperemo oggi, dicevamo? Allora, per quello che riguarda, parleremo di Cina, torneremo a parlare di Cina, perché appunto c'è la visita del Presidente della Repubblica. Cercheremo di fare il punto anche sul ruolo e la presenza delle imprese italiane in Cina. Parleremo di Alitalia, perché l'altro incontro che si è svolto oggi è sul tema Alitalia. Qualcuno mi ha chiesto su Facebook: ma si risolverà prima la vicenda Alitalia o prima la vicenda greca? Una bella lotta quella. Una bella lotta. E parleremo poi, come sempre, di mercati finanziari. Devo dire che oggi, su un rialzo del petrolio, il greggio infatti è arrivato a crescere del 2%, il WTI ha fatto è sopra 54 dollari al barile, 54,3. Si sono mossi anche i titoli legati proprio al settore petrolifero, penso a Tenaris come fornitore più 3,12 ed Eni come operatore più 2,80%, ebbene anche Buzzunic in più 2,90, Prismian, l'ex Pirelli Cavi più 2,40, Ferragamo più 2,14, Mediaset più 2 come Brembo e Recordati, Unipol più 1,5, Ferrari più 1,30 come Case New Holland e ST Microelectronics. Il fronte opposto: Banca Mediolanum meno 3,80, Banco BPM meno 2,70, Unicredit meno 1,80, Mediobanca meno 1%. Su Prismian c'è notizia, poi ne parleremo. Contratto da oltre 300 milioni di euro, una commessa che si è aggiudicata a Prismian dalla francese Rete per realizzare cavi sottomarini per collegare i tre parchi eolici offshore con la rete continentale. I cavi saranno realizzati nel centro di Arco Felice a Napoli e a Piccala in Finlandia e anche a Gron in Francia. Per quello che riguarda poi altri titoli, segnalo che molto bene anche Mondadori, più 10-25% dopo il piano industriale, ma ce ne occuperemo più avanti. Dicevo, oltre all'Italia, avremo anche, lo facciamo subito in apertura, il rapporto Nielsen, che è un rapporto sulla fiducia e attese dei consumatori che non si basa solo, che non guarda solo l'Italia, perché il campione riguarda tantissimi paesi. Ed è un rapporto che usiamo soprattutto per le prospettive di andamento nei consumi. Il campione di 30.000 individui in 63 paesi, tra cui appunto l'Italia. Se qualche segnale positivo arriva in Italia dalla misurazione della propensione al consumo, ma il dato italiano della fiducia dei consumatori è però più basso sensibilmente più basso della media europea, 81 punti la media europea, 58 punti dalla fiducia dei consumatori misurata in Italia. C'è poi il caso della Germania, 101 punti, anche la Francia è ben più alta di noi, è a 66 punti, la Spagna 86, l'unico paese dove la fiducia dei consumatori è più bassa di quella dell'Italia è la Grecia. Allora, gli indici non li ho detti, avete ragione. E do anche gli indici: Milano più 0,70%, Francoforte più 1,30%, Parigi più 0,60%, Londra meno 0,20%, l'America oggi riaperta più 0,50%. Allora, mamma mia, quanti messaggi sui tassisti. Allora, alcuni mi dicono: guardi che dovreste dire ai tassisti che questa compravendita di licenze non è regolare, le licenze le rilasciano i comuni. Altri mi scrivono sulle licenze: ma com'è possibile, con un reddito medio dichiarato di 18.000 euro lordi l'anno, com'è possibile che le licenze valgano 100.000, 150.000 euro, 200.000 euro? Lo so. E questo è l'aspetto fiscale. Vi faccio notare che quando facciamo la classifica delle dichiarazioni per categorie abbiamo anche i gioiellieri, lo calcolammo qualche anno fa, che a dichiarazione guadagnano meno in media dei loro dipendenti, no. Quindi insomma, gioielliere filantropo ancora non ce la faccio proprio a vederlo, fermo restando che sono medie, quindi ci saranno sicuramente gioiellieri che dichiarano più della media, però questo vale anche per i tassisti. Ma l'oggetto di contendere non è in questo caso la congruità fiscale né sulle licenze, fermo restando che la licenza in sé non può essere l'unico elemento di valutazione, lo dico con massimo rispetto per i tassisti. L'elemento è, insomma, la misura del governo, come è stata anche presentata del Parlamento, perché in realtà è al Senato che è arrivata, come è stata presentata. E però una riflessione che la categoria deve fare in generale, l'abbiamo detto più volte, per servizi anche più vicini. Alcune categorie di taxi si sono assolutamente già mosse, penso alle app che a Milano e a Roma sono presenti per giustamente far concorrenza anche al servizio Uber, concorrenza tecnologica. Penso però a altri casi, è inutile che vi torni, in cui diciamo soprattutto più si scende la penisola più è difficile pagare con una carta di credito o con un bancomat. Anche questo è un servizio al cliente, ho capito che la carta di credito è tracciabile, ma non può essere questo l'elemento, no? E non mi parlate del costo della carta di credito, che quello ce l'hanno tutti gli esercizi commerciali. È il problema che si preferisce avere il contante su. E poi ripeto, per esperienza diretta, la sperequazione tra tassisti con carta di credito a Milano, tassisti con carta di credito a Roma e tassisti con carta di credito a Napoli, e lì mi fermo per esperienza diretta. Dai, su. Allora, dicevo, parleremo anche del rapporto Nielsen di Alitalia e della Cina. Alcune notizie in breve devo ancora darle, però vado rapido su questo, al di là del petrolio. Che oggi vede anche l'accordo fra la libica NOC e la Russia Rosneft. Tra l'altro, la Russia oggi è di nuovo diventata, oggi a dicembre, ma il dato lo abbiamo saputo oggi, ha di nuovo strappato la corona all'Arabia Saudita come più grande produttore di petrolio al mondo. I due paesi se la contendono. La Russia ha prodotto nel mese di dicembre 10 milioni e 490 mila barili al giorno, l'Arabia Saudita è scesa a 10 milioni e 460 mila. Siamo lì. L'ultima volta che Mosca diventò nel mese il primo produttore risale al marzo 2016, e dicevo, il gigante russo del petrolio Rosneft e l'ente petrolifero libico National Oil Corporation hanno stato un accordo di cooperazione che getta le basi per gli investimenti della Rosneft nel settore petrolifero libico. L'altra notizia che riguarda invece l'Europa è l'andamento dell'attività economica misurata dall'indice PMI composito. È l'indice anticipatore più accreditato per raccogliere PMI sarebbe non per piccole e medie imprese ma per Purchasing Manager Index, cioè si chiede ai direttori e ai responsabili acquisti nei settori servizi e manifattura come prevedono i prossimi mesi. Ecco perché ha di solito una buona affidabilità. L'indice è salito a 56 punti contro il 54,4 di gennaio, e questo proiettato vuol dire che l'area euro in media andrebbe verso una crescita dello 0,6% nei primi tre mesi del 2017. Addirittura gli economisti si aspettavano un calo delle indicazioni arrivanti provenienti dai responsabili acquisti. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, trasmessi anche su RDS, e oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. La ripresa economica in Europa fa un passo in avanti. Gli indici PMI dell'Eurozona sono gli indicatori sullo stato di salute e sulle aspettative future per l'economia, segnano a febbraio la maggior crescita da 6 anni a questa parte. Se questa tendenza verrà confermata anche a marzo, allora nel primo trimestre del 2017 l'area euro potrebbe toccare una crescita dello 0,6%. L'indagine sugli indici PMI viene svolta tra i direttori di aziende manifatturiere e dei servizi e mostra un clima positivo, con gli ordini che sembrano in costante aumento, con un buon andamento delle vendite e anche prezzi, quindi inflazione in una dinamica di crescita finalmente positiva. A livello dei singoli paesi, in attesa del dettaglio sull'Italia che arriverà nei prossimi giorni, l'indagine segnala le buone performance di Francia e Germania, con crescita dello 0,6% per Parigi e dello 0,7% per Berlino. Quindi il quadro tende a migliorare e la ripresa tende a consolidarsi. Il rischio economico nell'area euro appare oggi molto basso. Non altrettanto però possiamo dire per il rischio politico, perché restano le incognite internazionali, la Brexit e l'effetto Trump, che ancora dobbiamo bene interpretare, e poi c'è la stagione elettorale che si sta aprendo in Europa. Si voterà in Francia, si voterà in Olanda, in Germania e chissà, forse anche in Italia, con il paradosso e il rischio che i populismi potrebbero sconvolgere gli equilibri europei proprio nel momento in cui l'economia pare destinata a uscire dal suo lungo letargo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, andiamo avanti. Mentre dalla Germania arrivano indicazioni discordanti di giorno in giorno sulle proiezioni elettorali, si vota a settembre, adesso sarebbe la CDU in testa dell'1,5% sulle SPD di Schulz, ma insomma, quello che sembra abbastanza chiaro è che lì se la giocheranno questi due partiti. Vado avanti sulla parte europea, lo dico agli ascoltatori, non facciamo la puntata sui tassisti. Non ho mai detto che la compravendita di licenze sia illegale. Leggevo l'SMS di un ascoltatore che diceva: ma insomma, se la licenza è del comune, perché c'è la compravendita? La compravendita esiste, come esisteva per qualunque licenza, può subire contrazioni nel valore, questo fa parte del rischio di impresa, vale anche per altre categorie, ma il tema non è la compravendita, il tema dello sconto non è la compravendita. Dopodiché qualcuno mi dice: ma lei non considera che il gioielliere divide il retto su sua moglie e figli? Non capisco, oltre che offendermi come testa di che, sa che non capisco il suo ragionamento. Cioè, qualunque reddito che non sa, può essere diviso, non è che, cioè, il reddito lordo è il reddito lordo. Io veramente non seguo il suo ragionamento. Non è che, magari ci fosse il quoziente familiare che chiediamo da anni e se ne fregano tutti per capire qual è l'imposizione fiscale e la pressione fiscale a seconda che tu sia singolo, tu abbia anche una famiglia da mantenere, ma non è così in Italia, per cui lei sta facendo un ragionamento veramente che non segue, anche un po' delirante. Forse aveva solo voglia di offendere, vabbè, evidentemente a buon tempo, come dicono dalle sue parti. Per quello che riguarda invece i saluti romani davanti alla sede del PD, anche qui vale sempre sotto ragionamento: se stanno protestando come stanno per una cosa molto specifica, e quindi l'emendamento che rinvia una decisione che doveva essere presa, la rinvia a fine anno, tenete fuori i saluti romani, lo dico molto tranquillamente, soprattutto per quello che riguarda i tassisti romani, che hanno una storia, non lo dico io, no, di vicinanza alla destra. State fuori dalla politica, cioè voi state facendo una lotta per la categoria, non c'entra niente il saluto romano, no? Cioè non siete allo stadio, dove comunque non è una partita calcistica, non è Lazio-Roma. Vabbè, andiamo avanti sull'Europa. Oggi ha parlato anche il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, davanti al Parlamento belga. Non siamo ancora alla fine della crisi, occorre portare rispetto all'euro, dobbiamo portare all'euro tutta la tenerezza istituzionale che gli si deve. Ma che è un bambino, Juncker? Juncker non so che cosa si è bevuto oggi. Vabbè, non è il momento di lanciare in Europa un dibattito istituzionale, la gente non interessa. Ma insomma, questo che ne sa Juncker di quello che interessa la gente, onestamente? E poi dice: io da sempre sono a favore di un'Europa più velocità, sulla parte delle cooperazioni. Abbiamo chiarito più volte che non si tratta di due velocità nella valuta, ma negli accordi da Schengen, agli accordi sulla distribuzione dei profughi e dei migranti. Sentiamo Juncker sulle due velocità. Je crois que le moment n'est pas venu pour lancer l'Europe dans un débat. Credo che non sia il momento di lanciare l'Europa in un dibattito istituzionale. Non interessa alla gente perché la gente ha altre preoccupazioni. Cosa facciamo per avvicinare l'Europa ai cittadini? Il fossato enorme che c'è tra l'Europa e la gente è anche il risultato dei fossati a livello nazionale tra poteri politici nei diversi paesi e il popolo. La Commissione si concentra sulle cose essenziali, come l'Europa dei mercati dei capitali, dell'energia, della difesa. Io sono a favore di un ricorso più frequente a cooperazioni rafforzate. Chiamatela Europa a più velocità, noi già l'abbiamo. Non posso più accettare che sulla crisi migratoria certi stati non partecipino agli impegni che hanno contribuito a definire. E non voglio più che certi stati membri blocchino quelli che vogliono andare più lontano. Je ne veux plus que les états membres puissent bloquer ceux qui veulent aller plus loin. Ancora Juncker ha detto: l'euro non è l'austerità, io non ho mai amato l'austerità cieca, è la ragione per cui l'Italia può spendere 19 miliardi di euro in più senza che sia sanzionata. Vabbè, allora, visto che si parla dell'Italia, prosegue la trattativa tra Roma e Bruxelles sul pacchetto di misure che la Commissione chiede all'Italia per restare sul deficit promesso, il deficit strutturale. Ieri abbiamo chiarito che non c'entra il miglioramento del PIL, perché quello che interessa all'Europa è il deficit strutturale. L'intervento, lo ricordo ancora, è a 3,4 miliardi di euro, cioè lo 0,2% del PIL. Domani l'Italia dovrà presentare a questo punto a Bruxelles le sue misure. Il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, al termine dell'Ecofin, ha detto: vabbè, non è il rapporto del debito sul debito di domani che può essere un passo verso la procedura. E poi ha detto: nessun dubbio dai mercati, lo spread si è stabilizzato, è salito per l'effetto Trump. Come già è stato detto pubblicamente, l'Italia si è impegnata a fare la correzione di cui abbiamo parlato anche ieri, parliamo tutti i giorni, confermo che si farà, e quindi questa è una cosa che toglierà ogni dubbio sulla consistenza con la coerenza dell'Italia con le regole. Questi dubbi sui mercati non li vedo. Sui mercati ci sono dei prezzi, c'è un prezzo sullo spread che si è alzato da circa un mese, anche a seguito dell'effetto Trump, che ha numerose implicazioni. Si è stabilizzato, non sta andando su, quindi questo mi dice che sui mercati che funzionano non ci sono dubbi in tal senso. Allora andiamo verso il meteo e la pubblicità, e poi iniziamo a parlare del rapporto Nielsen, ripeto, su 63 paesi, 30.000 casi, che è un rapporto fondamentale per capire anche gli orientamenti dei consumatori. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, andiamo avanti con la puntata e ringrazio per averci raggiunto in collegamento Romolo De Camillis, che è direttore di area retail di Nielsen Italia, con cui parleremo appunto del rapporto Nielsen di quest'anno. È un rapporto che ha come campione 30.000 individui in 63 paesi, tra cui l'Italia. Si chiama Global Consumer Confidence Survey. Grazie intanto appunto al direttore della retail De Camillis, buonasera. Buonasera. Rapporto annuale che va a misurare la fiducia dei consumatori e l'orientamento dei consumatori e anche la propensione al consumo. Allora, De Camillis, siccome a noi poi interessa soprattutto l'Italia, se ho ben capito, noi siamo ampiamente sotto la media europea per quello che riguarda la fiducia dei nostri consumatori, mentre qualche dato più positivo arriva dalla propensione al consumo degli italiani? Sì, su base trimestrale la fiducia degli italiani è cresciuta di un punto, ma è ancora molto bassa nel confronto con l'Europa, che cresce di 3 punti su base trimestrale, ma soprattutto ha un indice molto più positivo rispetto al nostro, quindi noi misuriamo 58 punti di fiducia dei consumatori e il confronto, il benchmark europeo parla di 81. Quindi abbiamo un gap da colmare, un gap diciamo che è stato parzialmente colmato negli ultimi anni. È con tutti i paesi dell'area euro, no? E dell'Europa. Questa è la media europea, e ovviamente un dato disaggregato parla di situazioni molto differenti. In Europa, diciamo, i paesi che mostrano l'indice più alto sono United Kingdom e Germania, con rispettivamente 102 e 101. E l'Italia è ancora, diciamo, a un livello molto più basso. Anche se non siamo nella situazione in cui eravamo anni fa, quindi questo va letto come dato positivo. Cioè, i nostri 58 punti, che sono ben al di sotto gli 81 punti della media europea, quanto erano anni fa? Eravamo sotto i 50? Sì, sì, noi nel 2012 abbiamo raggiunto 39 punti, è stato il picco più basso. E poi piano piano abbiamo recuperato fiducia, e il dato positivo di questa rilevazione, quella dell'ultimo trimestre, è che comunque cresciamo su base trimestrale, quindi quantomeno non arretriamo rispetto a dove eravamo un anno fa. Ecco, invece voi misurate anche la propensione al consumo. Se ci spiega la differenza tra la fiducia dei consumatori e la propensione al consumo, perché viste così sembrerebbero gemelli, e perché invece lì c'è un dato un po' più positivo, esatto, per l'Italia. Allora, l'indice di cui abbiamo parlato è l'indice aggregato, che ha dentro diverse componenti, quindi gli italiani poi si esprimono rispetto alla situazione complessiva del paese e anche rispetto alla propria situazione familiare. In particolare Nielsen misura poi la propensione al consumo, e qui c'è la componente più positiva della rilevazione dell'ultimo trimestre 2016. Sembra infatti che cresce la percentuale di italiani che ritiene questo momento adatto per fare gli acquisti, di contro diminuisce la percentuale di chi risparmia. Quindi sembrerebbe proprio un atteggiamento diverso rispetto al passato, un'inversione di tendenza, dove gli italiani sembrano voler ritornare a spendere. Questo, oltre ai segnali di questo survey, ci arriva anche da altri sondaggi. Ecco, ma come si coniuga il fatto che la fiducia nostra resti ancora così bassa con il 25% degli intervistati italiani che è convinto che la sua personale situazione finanziaria migliorerà entro 12 mesi? Allora, ci sono diversi elementi. Si coniuga con il fatto che a livello di fiducia ci sono ancora delle situazioni di fondo che incidono, quindi Ad esempio, la prima preoccupazione per gli italiani continua ad essere il lavoro, quindi questo sicuramente è un dato di fondo che permane anche nell'ultima rilevazione. Continua ad esserci preoccupazione rispetto alla situazione, alla propria situazione lavorativa e all'evoluzione. E ci sono però anche, diciamo, un atteggiamento, come dicevo prima, differente rispetto all'impiego dei risparmi, quindi meno risparmio, un po' più di consumi probabilmente che non osserviamo in termini di crescite quantitative, ma vanno verso consumi più di qualità. Va anche detto che probabilmente sotto questo dato disaggregato ci sono situazioni molto differenti. Quindi... Ecco, lì volevo arrivare, perché quello che noi vediamo, mi scusi, è che a partire da indicatori macro, penso all'occupazione, noi parliamo sempre dell'Italia, però le differenze che questa crisi ha prodotto anche a livello geografico sono enormi, nel senso che noi vediamo tassi di disoccupazione, non dico fisiologici, ma decisamente più bassi in tutta la parte che va dall'Emilia Romagna a tutto il nord, e al di là dei casi di chi non riusciva a trovare dei giovani per il colloquio, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, e invece un sud in estrema difficoltà. Ecco, voi riuscite a misurare questo attraverso, cioè anche la distribuzione geografica di questa fiducia e propensione al consumo? Allora, non abbiamo su questa survey una distribuzione geografica, però abbiamo osservato attraverso altri strumenti di ricerca nel passato questo differenziale molto forte tra famiglie che hanno un reddito medio-alto e famiglie che hanno un reddito medio-basso. Quindi no, probabilmente... Però, sì, questo ci arrivo anche da solo, nel senso che chi ha reddito medio-alto ha forse più propensione al consumo. No, mi interessava sapere se voi riuscivate anche a elaborare, e magari è un suggerimento per la prossima ricerca o survey, come la chiama lei, anche una differenziazione geografica, perché sennò il dato aggregato è talmente una media di trilussa che rischia di fotografare poco, no? Di essere sfocato per un eccesso, miope da una parte e presbite dall'altra, mettiamola così, no? Certo, assolutamente, sappiamo che ci sono delle differenze, non le misuriamo con questa survey. Va bene, grazie. Vedremo se poi questo si tradurrà, perché la Nielsen da sempre è l'osservatorio per tutto il mondo, anche poi della pubblicità, il rapporto Nielsen sugli elementi pubblicitari, se realizzerà e che conseguenze avrà poi anche sulle scelte di chi deve fare comunicazioni di carattere pubblicitario. Grazie a Romolo De Camillis, direttore area retail di Nielsen Italia. Adesso andiamo sul traffico e poi la borsa, che vi anticipo ha chiuso con uno 0,34% di rialzo, un po' quindi sotto la media di giornata, più 0,50 Parigi, più 1,20 Francoforte, meno 0,24 Londra, più 0,32% il Dow Jones. Poi parliamo di Alitalia e anche di Cina, appunto per la visita del Presidente della Repubblica e non solo, anche di molti manager di grandi gruppi italiani. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, andiamo sulla borsa, dicevo. Alcuni, appunto, sui dati Nielsen dicono: attenzione, i dati del sud sono falsati. No, guardi, tutte le volte che abbiamo avuto manager della grande distribuzione che si occupano, che hanno appunto punti vendita anche nel nostro mezzogiorno, ci hanno detto che la situazione è oggettivamente difficile, non senza giri di parole. L'ultimo che ricordo è Stefano Beraldo, che è il numero di Coine, OVS e UPIM, che in tempi non sospetti denunciò una situazione al sud ferma. Ora, sapete com'è, per chi conosce qualcuno che dice: ah, fatti un giro per l'Italia, guardi che io vado a fare la spesa, l'Italia me la giro, ma comunque saprà tutto lei. Ma dico, chi conosce la linea OVS come altre sa benissimo che se è lì le vendite in alcune aree vanno giù e vanno male, questo è il segnale di una profonda difficoltà, perché sono esercizi commerciali o catene che si rivolgono proprio alla fascia medio-basso e hanno costi comunque bassi, per cui non stai parlando della boutique. Allora, andiamo avanti con la borsa, dicevo, con come sempre con Radio Cori sulle 24 ore. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Dunque, oggi petrolio che rialza la testa più 2%, porta Tenaris più 2,80%, Eni più 2,30%. Invece su Prysmian c'è notizia relativa proprio all'azienda, più 2,60%, secondo il miglior titolo per l'ex Pirelli Cavi. Ha firmato un contratto del valore di oltre 300 milioni di euro con la rete elettrica francese per realizzare dei sistemi di cavo sottomarino per collegare tre parchi eolici con la rete elettrica francese, e quindi un contratto ben accolto del mercato in una giornata, come tu accennavi, dominata dagli energetici, non solo in Italia ma anche in Europa, quasi più 2% l'indice di riferimento in Europa, un po' per le rassicurazioni OPEC sulla riduzione dei livelli produttivi che continueranno e porteranno le riserve del 2017 a livello globale ulteriormente in basso, un po' anche per le stime di qualche casa di investimento come Citigroup, che vede un prezzo del barile medio sull'anno intorno ai $55, cioè al livello attuale sostanzialmente. Allora, andiamo avanti con gli altri titoli. Mondadori, piano industriale, conferma degli obiettivi, il titolo molto bene, no? Sì, ancora molto molto bene Mondadori, prosegue questa fase ormai iniziata prima di Natale per Mondadori, tra l'altro tra diversi motivi. Inizialmente si parlava di un coinvolgimento nella questione Vivendi Mediaset, successivamente invece abbiamo scoperto insomma che Fininvest aveva rafforzato la presa in Mondadori sopra il 53%, e da ultimo appunto le indicazioni del piano del 2019 che sono stati approvati una decina di giorni fa, ma che sono emersi dall'indiscrezione e confermati dalla società solo ieri, che hanno stimato ricavi per il 2019 oltre 1,3 miliardi con un utile netto di 35 milioni, sono stati alla base dell'ulteriore rialzo, oggi un vero e proprio balzo dell'11% con il titolo sopra, costantemente sopra 1,50 euro. Allora, restiamo sul tema, ma torniamo sui titoli di maggiore capitalizzazione, perché oggi si sono mosse in maniera negativa. Intanto Banca Mediolanum, che nel finale è peggiorata moltissimo, meno 6,70%. Sì, è stato proprio un tonfo nel finale dovuto alle indicazioni che i manager, in particolare l'amministratore delegato Massimo Doris, ha fornito nel corso della presentazione dei conti del quarto trimestre. Quarto trimestre che si è chiuso con un utile in calo, ma non lontano dalle previsioni, intorno agli 83 milioni di euro, ma soprattutto hanno preoccupato le indicazioni su una contrazione del margine di interesse nel 2017 di circa il 20%. E alcune preoccupazioni sulle commissioni da performance che potrebbero impattare sul 2018. Aggiungerei anche che non sono arrivate indicazioni positive, che magari qualche operatore si aspettava, ulteriormente positive su un rialzo del dividendo che dovrebbe rimanere stabile intorno ai 30 centesimi anche per i prossimi anni. Allora, oltre a quello dicevo, le altre banche, Banco BPM meno 3,14, Unicredit meno 1,5, UbiBanca meno 1, Mediobanca meno 1 come Luxottica, e Azimut sempre, immagino, sul risparmio gestito, sulla scia di quanto raccontavi, meno 3%. Ci sono novità su Banco BPM? No, sono stati andamenti che sono peggiorati soprattutto sul finale sul settore bancario. È vero che Banco BPM è stato sicuramente il protagonista negativo per buona parte della seduta, ma un settore del credito in una fase di debolezza, anche perché ci sono tanto carne al fuoco anche su altri istituti. Si aspettano quelle che saranno le decisioni di Carige in risposta alla BCE. Proprio oggi c'era un consiglio di amministrazione che sarà replicato la prossima settimana. Attenzione sull'intervento dello Stato sulla soluzione delle banche venete popolari di Vicenza e Veneto Banca, quindi un momento di debolezza. Non ultimo, siamo a due giorni dalla fine dell'aumento di capitale Unicredit, anche se il bilancio complessivamente almeno in borsa è stata di una volatilità non eccessiva, anzi ridotta per questo tipo di operazioni, considerando la maxi capitalizzazione da 13 miliardi di euro. E allora andiamo sui migliori e peggiori. Banca Mediolanum, tra l'altro, è il peggior titolo in assoluto oggi, meno 6,73%. Industria e innovazione, meno 5,70%. Net Insurance, per quello che riguarda il titolo, è a meno 4,80%. Biancamano, meno 4,60%. Banca Sistema, meno 4,35%. I migliori invece... Sintesi più 14,60%, Gequity più 11,80%, Mondadori abbiamo detto, Media Contact più 9,70%, Assiteca più 6,17%, Ergi Capital più 5,40%. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. Oh, adesso lasciamo la linea GR24, prima di parlare di Alitalia e di Cina, la missione italiana in Cina. Devo dire che siamo stati facili profeti nel chiedere prima sui tassisti, che non, nel ricordare che i saluti romani, i saluti fascisti non c'entrano nulla in una vertenza di categoria. È appena arrivata la notizia che sono 4 i fermati per i disordini di oggi a Roma. Secondo quanto ci ha preso, ci sarebbero anche 2 appartenenti a Forza Nuova, tra cui il leader romano Giuliano Castellino, fermato anche l'autore del lancio della bomba carta in via Quiro. Allora... e poi c'è un uomo, non si capisce però se sia un tassista o un ambulante, lo dico con massima rispetto, immortato con il tirapugni. Tenete fuori la politica, a maggior ragione la politica estrema come quella di Forza Nuova, su una vertenza di categoria. Lo dico ai tassisti romani che nel passato almeno, ma non solo, invece hanno spesso avuto la stima di essere vicini agli ambienti della destra, dell'estrema destra romana. Non c'entra niente la politica, c'è una vertenza in corso sulla categoria, restate su quel punto se volete un consiglio. E comunque adesso c'è il GR24, poi all'Italia e Cina. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Mi scrivono ancora molti ascoltatori, non sui taxi in questo caso, ma sui consumi, dopo l'intervista al responsabile del rapporto Nielsen. Ne cito una, che non riesco a... ho un negozio ex 99 centesimi, che sono quelli, visto che non conosco il mondo, in cui tutto compri a meno di un euro. In centro città, in un capoluogo dell'Emilia Romagna, ho un negozio sempre pieno di gente, ma negli ultimi 2 anni lo scontrino medio è calato del 30%. Ho molti clienti che perdono il lavoro, la percezione è che non ci siano più i soldi nelle tasche, e questo appunto perché quando dai il dato aggregato fai violenza. Ecco perché il suggerimento alla Nielsen di portare anche dei dati elaborati su base regionale, non solo su base aggregata. Comunque andiamo sull'Alitalia. Non ho il tono così, non riesco a trovare parole non volgari per dire il tono di annoiato sull'Italia. È semplicemente che ieri la Grecia, oggi l'Italia, sono preda del déjà vu, nel senso che i vertici dell'Italia si sono incontrati dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministro Carlo Calenda, dopo la riunione di ieri fra governo e sindacati. Durante questa riunione l'esecutivo si è impegnato a mediare sulla questione relativa al contratto. Tra l'altro le sigle sindacali CGL, CISL, UIL e UGL hanno espresso i timori ieri al governo per il protrarsi della presentazione del piano industriale e la decisione dell'azienda di procedere in modo unilaterale alla sostituzione del contratto collettivo nazionale. Su questo infatti i sindacati hanno interrotto la trattativa e hanno dichiarato lo sciopero. Non si è parlato invece di esuberi, le indiscrezioni continuano a citare tra i 1.500 e i 2.000 il numero di esuberi, ma il governo ha espresso molta preoccupazione sulla liquidità e sulla cassa. Se dovesse essere confermato il rosso di mezzo miliardo nel 2016, vuol dire che insomma siamo a più di 1 milione di euro di perdita al giorno, che era la vecchia cifra dell'Italia. Io ricordo che quando si parlava dell'Italia prima dell'ingresso di Etihad e durante appunto anche l'operazione CAI, si diceva, attenzione, l'Italia perde 1 milione di euro al giorno, se chiude con 500 milioni perde quasi 1,5 milioni almeno di euro al giorno. Allora Gianni Dragoni, aiutaci tu, buonasera Gianni. Buonasera Sebastiano. Dunque, il piano industriale, si è capito, arriverà a fine mese o il governo comunque lo attende entro la prima settimana di marzo, e poi se, che cosa hai capito dovrebbe esserci in questo piano industriale? Intanto mi è capitata un'agenzia del 12 gennaio, perché diciamo quando arriverà, in realtà il governo lo attende, ma non si è ancora capito se arriverà. Il 12 gennaio il presidente dell'Italia Montedemolo diceva tra 3 settimane ci sarà un piano forte e coraggioso per l'Italia. Invece sono passati 40 giorni e non c'è ancora. Cosa ci sarà nel piano? In realtà credo che nessuno ancora lo possa dire, perché l'Italia, diciamo, mentre sul punto del nuovo contratto ha messo sul tavolo delle richieste di, diciamo, riduzione del costo del lavoro e aumento della produttività, in pratica lavorare più giorni ma con lo stesso stipendio o con uno stipendio più basso, congelamento degli scatti di anzianità per i naviganti che oggi scattano ogni anno invece li farebbero scattare ogni 5 anni, quindi queste sono richieste chiare che i sindacati non accettano. Sul contenuto del piano industriale siamo, diciamo, abbastanza nella nebulosa. Cosa vuole fare all'Italia? Sappiamo che al suo interno sta studiando, ancora studiando, ma non ha ancora detto quale sarà l'opzione su cui punta, come ridurre nettamente il costo dei voli nel breve medio raggio, cioè i voli entro l'Europa, entro le 3 ore, sui quali ha le perdite più alte, e ci sono almeno 3 possibilità. Una, appoggiata soprattutto da Etihad, cedere questo settore a una compagnia, una vera compagnia low cost. Mi sembra però un'ipotesi difficile da attuare. Cioè, ma il settore quale? Delle tratte più brevi? Più brevi. Voli, cioè, voli Roma-Milano? Sì, Roma-Milano. O Milano-Napoli? Esatto, può darsi che qualche rotta rimanga in Alitalia, ma sostanzialmente, ad esempio, una rotta dall'Inghilterra a Milano a Roma, dalla Germania, anche rotte internazionali entro l'Europa. Quindi i candidati sarebbero Ryanair o EasyJet. Ed è soprattutto Etihad, il socio Etihad, che vuole questo. Poi c'è l'ipotesi di un accordo con la Lufthansa, che ha detto: voi prima abbattete i costi se volete che noi ci occupiamo dell'Alitalia, però un accordo commerciale in cui sarebbe Lufthansa a volare su queste rotte, magari attraverso la sua controllata ex German Wings, ora sì, Eurowings, ma potrebbe anche entrare in ballo la Air Berlin, che è una compagnia come Alitalia partecipata da Etihad, ne ha il 29%, come Alitalia perde un sacco di soldi, però quello che è successo è che Etihad ha fatto un accordo con Lufthansa a cui ha dato 38 aeroplani, compresi gli equipaggi di Air Berlin, questo si chiama wet lease, cioè una forma di noleggio con l'equipaggio, e voleranno per conto di Lufthansa su rotte in Europa, per cui potrebbe essere la Air Berlin che fa dei voli se ci fosse questo accordo. La terza ipotesi, anche questa mi sembra piuttosto difficile da realizzare, però anche se allo studio, all'Italia sta cercando di studiare al suo interno se può creare lei o abbassare lei i suoi costi, quasi a creare una sorta di low cost, io direi più una mezza low cost per il breve medio raggio. È difficile riuscire a fare una low cost da una compagnia che non lo sia, è più facile farlo creando una compagnia nuova. Il piano dovrebbe spiegare quale può scegliere tra queste strade, oppure dire che ci sono queste tre opzioni. Sì, le agenzie, Gianni, hanno appena battuto in questi istanti che i vertici di Alitalia, dopo l'incontro odierno con il ministro Carlo Calenda, l'amministratore delegato dell'Italia, Cramer Ball, ha ribadito l'intenzione della compagnia di trovare un'intesa con le organizzazioni sindacali sul rinnovo del contratto nazionale del lavoro scaduto lo scorso 31 dicembre. Mi sembra che, insomma, le ipotesi che tu stavi citando siano tutte e tre, per carità, analizzabili, ma ancora un po', non dico vaghe, ma insomma sono tutte un'alternativa all'altra, non sono complementari. Sì, per cui... Certo, e sono soprattutto ancora, credo, lontane dall'arrivare, perché sono quasi 2 mesi che ci si sta lavorando, 1,5 mesi, quindi questo studio non ha ancora portato a una scelta chiara. È chiaro che l'Alitalia aveva separato l'aspetto del contratto da quello, perché se fosse riuscita a fare un contratto che riduce il costo del lavoro sensibilmente, sarebbe stato già un passo avanti per i problemi dell'azienda. I lavoratori fanno notare, i sindacati, i sacrifici ne sono già stati fatti. Poi c'è il punto interrogativo: quanti sono gli esuberi, che dovrebbero essere alcune migliaia. Ci saranno degli esuberi, dall'Italia non lo ha detto, il governo aveva chiesto di non dirlo fino al referendum del 4 dicembre, il referendum c'è stato, ma questo capitolo non è ancora stato scoperto. Quindi adesso l'Italia deve dire entro il 28 febbraio, domani ci sarà un incontro dei sindacati ad Assaeuro, che è l'associazione di cui fa parte l'Italia, per tentare di riprendere un dialogo, un campo neutro, diciamo. Ma ormai dopodomani c'è uno sciopero che, salvo imprevisti, penso che sarà confermato. I sindacati, so che si riservano anche, non hanno ancora detto se andranno a questo incontro di domani, quindi potrebbero anche non andare. E staremo a vedere appunto entro il 28 il piano. Certo che faccio notare, se non so cosa capiterà sul fronte dei tassisti domani, dopodomani, ma certo che al di là della settimana della moda milanese domani, a Roma, ma non solo, anche a Milano, immaginatevi la giornata del 23 se continueranno le astensioni volontarie, perché non è uno sciopero a tutti gli effetti, anche dei taxi, niente aerei, niente taxi, va bene così, no? Tanto sono dettagli. Grazie a Gianni Dragone, andiamo sul traffico e poi ci spostiamo in Cina, nel senso che inizio la missione guidata dal Presidente della Repubblica, parte oggi da Pechino, la visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Cina fino al 26 febbraio. Quattro tappe in Cina, dopo Pechino il viaggio proseguirà a Shanghai, Chongqing, che è considerata la nuova frontiera commerciale della Cina. L'Italia aprì nel 2013 Chongqing un consolato, e Xi'an. E poi è la prima visita di Stato di Mattarella dopo quella del 2010 di Napolitano, mi riferisco alla Cina chiaramente. E si parlerà, immagino, anche del fronte internazionale. Noi vorremmo introdurre il tema e anticipare anche alcuni elementi, cercando di capire che cosa sia successo nel frattempo alle imprese italiane in Cina, perché con questa crisi e con i problemi di casa nostra abbiamo un po' dimenticato quello che invece in anni precedenti al 2008 monitoravamo con una certa attenzione, quindi l'approccio italiano alla Cina, con gli errori fatti all'inizio, con i miglioramenti invece che si sono poi realizzati negli anni successivi, con l'idea di non andare lì a vendere i nostri prodotti ma di produrre per il mercato cinese e non tanto di produrre lì per poi il mercato italiano. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Oh, bella questa nuova base che è arrivata dalla regia. Allora, vedo un flash proprio dall'Italia: in vista dello sciopero del 23 febbraio, già riprotetto il 90% dei passeggeri, quindi ha dovuto cancellare il 60% dei voli, ma ha inviato oltre 9.000 fra mail e sms, ha contattato telefonicamente oltre 4.500 viaggiatori, così comunica l'azienda l'Italia. Dicevo della Cina, sono in questo momento mal contati, diciamo, ma circa 2.000 le imprese italiane presenti in Cina, con 5 miliardi di euro di fatturato e 60.000 posti di lavoro. La Cina è il quinto partner commerciale italiano. Mattarella sarà accompagnato per una parte dalla visita del ministro degli esteri Alfano e poi dal ministro delle infrastrutture Delrio, che avrà anche in carico tra l'altro gli incontri sulla via della seta marittima. È un progetto molto ambizioso, la Cina vuole ridisegnare la nuova via della seta anche via nave, e riguarderà tra l'altro l'obiettivo di entrare nel Mediterraneo. Vediamo se Venezia sarà il porto più interessato. I temi politici vedranno, ne parleremo anche domani, la riduzione del deficit dell'Italia verso Pechino sotto i 10 miliardi di euro deficit commerciale, il forum culturale affidato a Francesco Rutelli, il business forum che sarà presieduto da Marco Tronchetti Provera, e poi si riunirà in seduta congiunta mercoledì pomeriggio. I 5 settori del Made in Italy, del percorso strategico che vuole intraprendere la Cina, sono la sanità, l'agroalimentare, l'urbanizzazione, l'ambiente e l'aerospazio. E poi verranno firmati mercoledì nella grande sala del popolo di Pechino, in piazza Tiananmen, dal Presidente della Repubblica Mattarella e dal Presidente cinese, verranno firmati, dicevo, 13 accordi commerciali istituzionali, tra cui Fincantieri e poi Ansaldo Energia, che è come socio Shanghai Electric, e Prysmian, quindi cavi elettrici. E vorrei capire invece che aria si respira nella comunità italiana di imprenditori presente in Cina. La parte più numerosa, come per altre comunità di altri paesi, è a Shanghai, perché è la parte più interessante, diciamo, dal punto di vista del business della Cina. E torna ai nostri microfoni una vecchia conoscenza di questa radio, così lo usiamo come monitor, come benchmark, e mi riferisco a Saro Capozzoli, che con la sua IESE da oltre 20 anni in Cina aiuta le imprese italiane a stabilirsi lì e anche ampliare l'attività di servizi. Segue tutta la parte commerciale e anche la parte legale. Capozzoli, buonasera o buonanotte, buonasera, visto l'orario. Buonasera a voi. Allora, al di là di quelli che poi saranno gli accordi firmati anche con i grandi gruppi, ma la situazione delle 2000 imprese, non è che tutte stiano a Shanghai, ma sono anche molto spesso medie imprese, non sono solo i grandi gruppi. Qual è e che dati avete di carattere aggregato, visto che voi fate anche studi proprio sull'andamento dei singoli settori? Sì, sono aziende, sono circa 2000, in gran parte però sono aziende di rappresentate da uffici, da uffici commerciali, rappresentanti di office, perché solo il 25% di queste aziende sono realtà produttive. E questo è una caratteristica, diciamo, italiana, perché affrontare un mercato come quello cinese, pensando di poter solo esportare dall'Italia, immaginiamo un po' la mozzarella, per dire, o prodotti che deperibili, diventa molto difficile. È un trend che adesso gli investimenti italiani in Cina sono un po' rallentati negli ultimi anni, anche un po' a causa della crisi, però diciamo sono arrivate imprese e aziende molto più grosse. Ad esempio la Ferrero ha fatto un grosso investimento, sta arrivando diciamo investimenti che erano attesi da anni, no? E che mancavano proprio all'appello. Quello che registriamo è un incremento nel trading, specialmente negli ultimi due anni, ma una presenza che secondo noi qui non è ancora sufficiente a rappresentare tutta l'Italia, perché le opportunità che ci sono qui in Cina sono enormi, ma sono molto sottovalutate. Senta, Capozzoli, però si dice che mentre in altri paesi, penso alla Russia, penso a tutti i paesi OPEC, quindi Medio Oriente e Stati Uniti e Canada, il nostro agroalimentare va fortissimo. In Cina ci sono problemi da un certo punto di vista anche logistici, però non è che siano solo quelli, anche gli Stati Uniti sono distanti, ma anche di carattere culturale, cioè i cinesi hanno una cultura molto forte gastronomica, non hanno questa grandissima vicinanza culturale al vino, è un mercato ancora da completamente da fare, per quanto i francesi fatturino 900 milioni, noi solo 90 milioni. Quali sono i settori che lei vede più in espansione per le nostre imprese in Cina? Non solo come parte commerciale, ma anche come stabilimenti. Beh, la parte, diciamo, meccanica, sì, è quello che è la nostra bandiera più importante. L'agroalimentare è un problema, perché se vediamo dei grandi numeri da parte, la Germania esporta in Cina 4 volte di più di agroalimentare rispetto all'Italia. Fa dei numeri, noi siamo intorno ai 350 milioni di dollari, loro sono fatturano molto di più. Qual è la differenza? È la presenza diretta sul mercato, che non vuol dire produttiva, ma anche commerciale. I nostri imprenditori molto spesso non si mettono d'accordo, non creano consorzi come hanno fatto i francesi, sono anche loro, hanno tantissimi produttori di vino piccolissimi, ma si mettono insieme. C'è ad esempio un consorzio, ad esempio, di vini francesi che ha 260 etichette, hanno 1500 venditori in giro per la Cina e vendono direttamente. Non usano solo gli agenti, i distributori, che poi non investono nel brand. Quindi i nostri vini vengono utilizzati come complemento di un catalogo, mentre chi è presente gli spinge di più i loro prodotti. Senta, comunque, quindi, sui settori lei mi diceva ancora la meccanica, più che il Made in Italy classico. Qualcuno mi chiede qual è la situazione invece in Cina su Trump. La domanda mi sembra più che corretta. C'è molto timore per quello che saranno le misure prese da Trump, o si ritiene che alla fin fine si sgonfierà un po' tutto questo atteggiamento? Ma quello che accadrà con Trump e la Cina è tutto un'incognita. Quello che però sta accadendo, lo vedo anche nel nostro business, è che l'attenzione della Cina verso l'Europa sta aumentando enormemente, mm-hmm. perché è l'unico partner poi alla fine in Occidente affidabile rispetto adesso agli Stati Uniti. Figurati un po', insomma. No, è affidabile nel senso che c'è ascolto, c'è un rispetto reciproco. Mm-hmm. Con gli Stati Uniti, i cinesi hanno un po' raffreddato un po' gli investimenti nel paese degli Stati Uniti, mm-hmm. e stanno guardando molto di più al nord Europa, anche all'Italia ovviamente. Questa visita è molto importante anche per i nostri imprenditori presenti, perché suggella un po' un anno e più di lavoro del nostro ambasciatore, che ha veramente creato un ambiente facciamo l'encomio all'ambasciatore quando appunto la pubblica amministrazione funziona. No, è una cosa, come si chiama Capozzoli, perché non conosco il nome. Ettore Secqui. Io dopo 30 anni che sono in Cina, forse il primo ambasciatore che ho visto veramente lavorare in una maniera importante verso il nostro export, ma anche verso la nostra azienda. Bene. Senta, Capozzoli, gli errori che commettevamo quando trasmettevamo negli anni prima della crisi e delle volte anche da Shanghai, senza pagare una lira, lo dico, un euro, perché venivamo invitati, per cui non pensate che la radio abbia chissà che mezzi, però dicevo, gli errori più classici erano andare a fare joint venture in cui poi il tuo contratto non veniva rispettato e il partner cinese ti rubava, tra virgolette, idee, magari anche l'azienda te la apriva vicino. Poi hanno iniziato gli italiani a capire che dovevano essere presenti col 100% del controllo, e hanno capito che non bisogna pensare di importare in Cina quello che piaceva in Europa, ma produrre per il mercato cinese. Ecco, e questi errori si sono in larga parte superati. Qual è l'errore che ancora lei vede frequente nell'approccio non tanto dei grandi gruppi, ma insomma delle medie imprese italiane? Beh, ancora non è perché il mio lavoro, però un supporto ci vuole, non si può affrontare questo mercato. La piccola e media azienda che pensa di fare una joint venture o comunque un'attività commerciale senza avere un supporto locale importante, cioè che abbia un po' di esperienza, è un problema. Cioè, i tedeschi, i nostri partner così europei, non si muovono senza avere una guida. Qual è il problema? È che facendo da sé succede che praticamente non sempre si possono incontrare dei partner giusti e fedeli. Quello che vedo adesso però è un altro tipo di tendenza, è la tendenza dei cinesi non tanto più a rubare le tecnologie, ma più questo è il passato. Loro adesso investono miliardi di euro in Europa in aziende che poi vogliono far sviluppare in Cina, mm-hmm. perché si trova, c'è un gap tecnologico, un spazio, c'è proprio un cioè che fanno prima comprarsi l'azienda europea e poi portare il know-how in Cina che a sviluppare con un'azienda cinese in Cina. Ma questo diventa un'opportunità per le piccole e medie aziende che si ritrovano a lanciare sul mercato col proprio nome. Se mi chiamo Brambilla, il partner cinese svilupperà il brand Brambilla in Cina e darà gli elementi, questo che sta accadendo, un win-win, una situazione diversa che due anni fa non c'era. C'è una situazione in cui il partner cinese darà le risorse economiche per svilupparsi in Europa e fare altre acquisizioni. E questo è quello che sta succedendo in Germania. In Germania ci sono state circa 300 acquisizioni negli ultimi 3 anni da parte cinese. Da parte cinese? Sì, senza che nessuno gridasse in Germania alla colonizzazione cinese. Grazie Saulo Capozzoli, poi seguiremo appunto anche magari con lei nei prossimi giorni. Mi interessava capire anche come sta andando la cosiddetta classe media cinese, su cui ho visto proiezioni di 800 milioni di turisti cinesi nei prossimi anni in Europa. La famosa classe media cinese che dovrebbe valere circa 250 milioni di persone, cioè un continente, quasi gli interi Stati Uniti. Ne parleremo magari nei prossimi giorni. Grazie intanto al proprietario fondatore della IESA in collegamento da Shanghai. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.